La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, qui degli studi di Milano, Oscar Giannino. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta, in podcast, anche in questo giorno dedicato alla commemorazione dei defunti. E giuro, è un caso, non c'è alcuna correlazione né causazione, ma vi dice subito che in questa puntata, appunto nel giorno dei defunti, parliamo della legge di bilancio 2017, ma ripeto, è del tutto casuale da questo punto di vista. Allora, prima di presentarvi l'ospite, qualche considerazione di fondo, perché è solo da sabato, quindi da domenica in realtà, che noi abbiamo a disposizione, a due settimane dall'annuncio di Palazzo Chigi con le slide eccetera eccetera, della legge di bilancio 2017, si richiama così da quest'anno, si chiama così, non è più la manovra, la legge di stabilità. Abbiamo il testo, abbiamo poi il decreto legge fiscale, che intanto era noto dall'inizio della settimana scorsa, e abbiamo la relazione esplicativa, che sono la bellezza di 518 pagine fitte. Quindi è stato finalmente possibile, per chi ha la voglia, il tempo, la competenza di passarci sopra un bel po' di ore, capire meglio quello che due settimane fa non era affatto chiaro e che poi nel tempo è mutato, perché avrete ascoltato dai microfoni di Radio 24, da me anche molte volte, come le coperture inizialmente indicate da alcuni provvedimenti per coprire parte delle spese aggiuntive, in cui in realtà il più è coperto in deficit, mutassero nel tempo grazie al fatto che il Quirinale interveniva per rispondere preventivamente a obiezioni poi venute comunque dall'Unione Europea, perché per esempio i 6 miliardi che inizialmente erano stati illustrati come somma di maggior gettito per l'intervento della rottamazione delle cartelle, 4 miliardi, e i 2 miliardi della volontà di disclosure, sono praticamente, sono ridotti a 1,7 miliardi dalla volontà, ma dalla rottamazione sono spariti. Detto tutto questo, io mi limito a dire, chi volesse approfondire meglio il quadro generale, a mio giudizio in una maniera che non è viziata dal pregiudizio, né favorevole al governo né ostile pregiudizialmente al governo, può farlo andando a vedere il sito lavoce.info. È uscito proprio stamattina un articolo del professor Francesco Daveri, secondo me adeguatamente imparziale e oggettivo. E quindi, quali sono i dati di maggior rilievo, come premessa da tenere come su un'ideale lavagna di questa del complesso, della somma della legge di bilancio 2017, del decreto fiscale e delle spiegazioni delle tabelle che ci fornisce? Innanzitutto, nel triennio, perché sapete che la legge di bilancio vale per il 2017, ma poi vale anche per il 2018 e 2019, poi si modifica di qui a dicembre quella del 2018 e 2019, però è un quadro di legislazione pluriennale, cioè triennale. Ebbene, possiamo dirvi con certezza che la spesa pubblica in questi tre anni, secondo il governo, aumenta di 19 miliardi di euro. Le entrate aumentano di 55 miliardi di euro tra 2017 e 2019. E questa prima osservazione. La seconda osservazione riguarda il deficit, che è il punto debole di questa manovra, al netto poi di che cosa si possa pensare del mix di misure, dell'impatto sul prodotto potenziale e così via, visto che comunque il segno complessivo è di un moderato sostegno alla crescita. Eppure il deficit sale di 12 miliardi nel 2017, quindi arriva a 40 miliardi di euro, dice il governo. Tenete presente poi che, come al solito, le stime sono ottimistiche, ma comunque aumenta di 12 miliardi. Quindi il più del mancato scatto del punto di PIL previsto dell'aumento dell'IVA e delle accise per l'anno prossimo è in realtà coperto a deficit, come vedete, e questi 12 miliardi di spese in realtà, se le disaggregate in più di deficit, sono 7 miliardi di spese in più, 5 miliardi di entrate in meno rispetto ai dati riportati a settembre da questo stesso governo nella nota di aggiornamento al DEF. Dopodiché, malgrado questo aggravamento nel 2017, il governo dice, terza e ultima mia osservazione iniziale, che naturalmente le cose del 2018 e 2019 andranno meglio, perché l'indebitamento netto a quel punto scende verso zero, perché scende dai 40 miliardi in salita nel 2017, si riduce della metà nel 2018 e poi arriva a 4 miliardi nel 2019. Però state attenti, perché queste previsioni del governo inglobano clausole di salvaguardia, cioè lo scatto automatico di nuovi aumenti dell'IVA e delle accise. Come sapete, poiché poi il più della manovra è proprio per impedire che essi avvengano, ecco che uno ha i titoli per dire: ma le previsioni di azzeramento del debito nei due anni successivi ancora una volta sono fondate su previsioni ballerine. Ed è su questo, in realtà, secondo me ha ragione il professor Doveri a concludere così la sua nota, che ho trovato sulla voce.info, che si appuntano i più delle obiezioni dell'Unione Europea, non tanto ai criteri del sisma e delle spese del sisma e degli immigrati, come invece nella comunicazione pubblica e anche, devo dire, nel ruolo che i giornali svolgono nel riprendendolo pedissequamente, voi sentite dire. Le obiezioni sono sul fatto che ancora una volta noi ci prendiamo un anno in più e deficit in più, dicendo che tra due anni le cose miglioriamo e diventiamo virtuose, ma questa è una prassi che abbiamo fatto tante di quelle volte, e comunque da che Renzi è in carica sempre, ogni anno, che alla fine l'Unione Europea dice: sì, ma voi la sostenibilità vera dell'azzeramento del deficit strutturale corretto per il ciclo continuate a spostarla in un orizzonte sempre più avanti. Questo è il punto interrogativo che spiega l'inquietudine dei mercati, il fatto che lo spread è tornato superiore a quello spagnolo e così via, l'attesa per il referendum che sembra l'Armageddon, che a seconda di chi vinca o chi perda succede l'ira di Dio, e che secondo me è stato un errore caricare di tutte queste aspettative, perché alla fine i mercati ci credono e dicono: beh, allora vi spariamo addosso se vince il no. Ma detto tutto questo, questi sono i principi generali della manovra. Ma ora vi presento il nostro ospite, perché stamattina sul Corriere della Sera mi ha colpito un articolo breve ma efficace, che andava subito al punto, il cui titolo è: la legge di bilancio spinge gli imprenditori verso i prestiti bancari, perché fa un ragionamento esattamente sulle misure che riguardano le imprese in materia fiscale nella somma della legge di bilancio e del decreto fiscale. E l'autore è il professor Riccardo Puglisi, che è professore associato di economia all'Università di Pavia ed è redattore anche della voce.info che abbiamo prima richiamato e che scrive appunto per il Corriere della Sera e l'Inchiesta. Grazie di essere con noi, professor Puglisi. Buongiorno a voi. Allora, lei nel suo articolo mette in parallelo la nuova IRI, cioè il nuovo regime agevolato per le microimprese e le imprese individuali, e invece gli interventi che in manovra il governo fa sull'ACE, e ne ottiene un risultato che non è esattamente di quelli che si sono letti sui giornali. Ci spieghi un secondo? Innanzitutto la questione è che il governo stesso, Renzi stesso, non ha la buona abitudine di mettere nelle slide il cosiddetto conto delle risorse degli impieghi, cioè il ragionamento su da dove vengono i soldi e dove vengono messi i soldi in termini di maggiori spese o minore tasse. Quindi questo in realtà era stato fatto l'anno scorso, ma quest'anno non è stato fatto. Allora cosa si fa? Si attende la relazione tecnica in cui la Ragioneria Generale dello Stato deve rendere conto di quali sono gli effetti per i conti pubblici degli interventi fatti con la legge di bilancio, cioè cambiando le carte in tavola dal cosiddetto quadro tendenziale al quadro programmatico, cioè quello che vuol fare in più il governo con la legge di bilancio. Ebbene, a pagina 97, per i noiosi che si guardano i PDF della relazione tecnica, si vede una tabella in cui è lo stesso governo che fa il conto mettendo insieme le due cose, ovvero sia questa opzione di pagare meno tasse con un 24% di aliquota per, diciamo, le società di persone, gli imprenditori individuali, quindi questo vorrebbe dire meno gettito per lo Stato, un taglio di tasse per i cittadini, per le imprese in questo caso, ma dall'altra parte nello stesso articolo si parla, con un eufemismo che io trovo veramente fastidioso e temo di non essere l'unico, di razionalizzazione dell'ACE. L'ACE è l'aiuto alla crescita economica, ovvero un'agevolazione, ovvero minori tasse che vengono pagate dagli imprenditori di qualsiasi tipo, quindi anche SPA e SRL, che decidono di finanziarsi con nuovo capitale di rischio invece di farsi prestare, come spesso fanno in eccesso le imprese italiane, tramite prestiti bancari. Quindi c'è un bonus fiscale che viene dato e serve anche per correggere questa struttura delle imposte, tale per cui sembra sempre un'idea migliore, anche le tasse ti spingono a farti prestare i soldi invece di mettere capitale proprio. Ebbene, andando al punto, se uno mette insieme le due cose, nella tabella stessa del governo, nella relazione tecnica della ragioneria, ottiene il risultato che il divario è 1,7 miliardi in più per lo Stato. Cioè nel 2017 queste due manovre insieme fanno 1,7 miliardi in più di incassi per lo Stato, quindi il minore incasso, il risparmio del taglio di tasse dell'imposta IRI è più che compensato dal fatto che le imprese pagano di più dall'altro lato, cioè dal lato dell'agevolazione minore che si chiama ACE. Quindi il risultato è uno 0,1% di PIL in più di incassi nel 2017. L'unico anno in cui i cittadini incassano di più e lo Stato di meno è il 2018, mentre per un importo che vale 500 milioni, cioè in quell'anno lì sono i cittadini che prendono 500 milioni in più in termini di minore tasse, ma in tutti gli altri anni successivi è sempre lo Stato che prende di più. Quindi la questione è: uno vede sbandierata la faccenda di questo taglio di imposte dal lato IRI, ma dall'altra parte si parla di razionalizzazione dell'ACE, che vuol dire più tasse. Allora, cioè, io tento di rispiegare, perché sono convinto che purtroppo la radio rende complicato senza una lavagna la televisione spiegare bene di che cosa si tratta. Sì. Questa, il confronto fatto dal professor Puglisi ha un doppio valore, non solo perché mette insieme due interventi fiscali, uno di segno sgravi, uno di segno aggravi, che riguardano entrambe le imprese, ma in realtà mette a confronto due provvedimenti che per la loro natura, questo IRI, cioè l'assoggettamento a un'aliquota privilegiata del 24% per i microimprenditori, e quello dell'ACE, agevolazione per gli investimenti di mezzi propri per rafforzare il capitale delle imprese, che hanno a che vedere con la stessa cosa. Perché? Perché vi sia chiaro, cari ascoltatori, in realtà per i microimprenditori che intendano avvalersi del 24% invece che della tassazione del reddito personale che proviene dalla propria microimpresa assoggettata alle aliquote proporzionalmente crescenti del proprio reddito come persona fisica, la condizione è quella che si comportino come le società di capitali che andavano all'ACE, cioè che reinvestano l'utile invece che attribuirselo. Esattamente come le agevolazioni per l'ACE servivano ad agevolare le imprese, una classe molto più ampia di imprese, tutte le società di capitale, che intendevano a quel punto finanziare gli investimenti con capitale proprio invece che con quello di terzi. Quindi capite che stiamo parlando in realtà di una stessa misura, una che riguarda le imprese piccole e le altre invece le imprese medio-grandi e organizzate in forma di società di capitale. È ancora più stridente la contraddizione tra le due cose, perché mentre si dice ai piccoli imprenditori: se voi non lo attribuite a voi, perché sennò continua la tassazione con reddito persone fisiche, con aliquote crescenti, ma reinvestite, allora noi vi diamo il 24%. A tutte le altre imprese si dice: le agevolazioni che vi avevamo dato per investire col capitale vostro e quindi per reinvestire in azienda, ve le restringiamo. Che cacchio di senso ha, cari ascoltatori, una cosa simile? Spiegato poi, però adesso io arrivo alla conclusione, però poi andiamo un minuto informazione stradale e chiedo al professor Puglisi, perché lui è tenuto a essere più imparziale di me. A me come giornalista viene in mente di dire questo: cari ascoltatori, ai microimprenditori si dà un segnale politico, no? Politico. Mentre invece a tutte le altre imprese dice: vabbè, ve ne siete avvalsi per 2 anni, adesso voi invece pagate di più, cari miei. E allora, siccome evidentemente ai piccoli bisognava riequilibrare nel mix di tutti coloro che hanno bonus o non bonus della manovra, ecco che la mia è una lettura politica, perché dal punto di vista della coerenza dell'ordinamento fiscale, che è quello di cui discutiamo invece oggi, sono due misure non solo in cui quello che si incassa di più restringendo l'ACE batte quello che invece resta nelle tasche dei piccoli imprenditori con l'IRI, ma soprattutto sono contraddittorie, perché insistono su incentivi in teoria volti esattamente allo stesso fine, in forme diverse, perché diversa è la forma e la natura giuridica delle imprese a cui si applicano. Allora, domanda: si sbaglia Giannino a essere cattivo secondo lei? Però la risposta me la date tra un minuto, perché intanto strada. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. La la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Possiamo finalmente ragionare sul complessivo del testo della legge di bilancio 2017 e pluriennale per il biennio successivo e del decreto fiscale che era noto da una settimana. In più c'è anche la relazione di 518 pagine. Abbiamo con noi il professor Riccardo Puglisi, che insegna economia all'Università di Pavia e che ha scritto, appunto, prendiamo due provvedimenti in materia fiscale alle imprese, tanto sbandierato meno gravi per le imprese. Se mettiamo da una parte l'IRI per le microimprese e dall'altra l'intervento sull'ACE, ecco che otteniamo un effetto per cui quanto lo Stato incassa di più con l'ACE, quindi restringendo gli incentivi precedenti, batte di 1,7 miliardi, quanto invece incassa di meno lasciando con l'IRI nelle tasche dei microimprenditori. Io ho dato una lettura cattiva, politica. Che dice il professor Puglisi? Dico che, come si dice, a pensare male si fa peccato, come diceva un politico della Prima Repubblica, ma talvolta si azzecca, nel senso che ci sono provvedimenti che possono essere visti dagli elettori e indurre gli elettori a spostarsi in un certo modo. Ricordiamo che c'è anche una scadenza elettorale tra poco, ovvero sia il referendum. E dall'altra parte però c'è tutto un ammontare complessivo di interventi, per cui uno deve guardare il complesso delle cose, cioè gli sgravi fiscali da una parte e semmai da dove, come diceva Ugo La Malfa, da dove vengono i soldi per questi sgravi fiscali. In questo caso il governo purtroppo fa quella che io chiamo cacciaranomics. Dopo la Reaganomics c'è la cacciaranomics, ovvero sia pensare che mixando diversamente le imposte tu ottieni degli effetti positivi per la crescita. In questo caso dai le mazzate alle SPA e alle SRL in termini di minore agevolazione fiscale, cioè più tasse, e dai qualcosa ai piccoli imprenditori in un'altra forma, pensando che questa possa sortire degli effetti di crescita positivi. Io sinceramente non ci credo, anche perché crea incertezza. Poi hai l'imprenditore che si ritrova sulla cocuzza, sulla testa, scusi il termine, un intervento di aumento di tasse che non ti aspettavi. Il problema è sempre di saldi di bilancio, di bilancio pubblico, di finanza pubblica, perché se la spending review è debole, oserei dire stipica, è a un certo punto le risorse le devi trovare da un'altra parte, ovvero a livello complessivo nel deficit, come è stato sottolineato prima, e in secondo luogo facendo questi rimescolamenti, questa cacciara di diminuzione di tasse da una parte finanziata da altre tasse dall'altra, come dire una coperta corta per cui tu ti proteggi da un lato perché devi proteggerti da un pugno e poi il pugno ti arriva da un'altra parte. Io le ho un'altra domanda da fare, perché noi abbiamo la mia trasmissione, un vasto pubblico di lavoratori autonomi che esistono anche loro e sono soggetti naturalmente da anni all'accusa da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di essere evasori e delusori. Anche qui c'è un doppio intervento del governo nella legge di bilancio. Da una parte per le partite IVA freelance, cioè quelle non iscritte a ordini professionali e quindi che erano tenute alla gestione separata, si abbassa loro, doveva scattare come tutti gli anni automaticamente l'aliquota al 33%, non solo non scatta, ma il governo, secondo me molto positivamente, lo dico per tutti questi colleghi, abbassa l'aliquota al 24%, e io sono molto contento. Dall'altra parte però, rispetto a questa minoranza che era selvaggiamente esposta a pagare sempre di più un welfare a cui non hanno diritto, questo è il punto, molte volte ce ne siamo occupati, dall'altra per tutte le partite IVA invece il governo opera una modifica strutturale, cari ascoltatori, cioè l'obbligo di comunicazione trimestrale delle proprie fatture sia attive che passive. E Questo obbligo lo Stato, il governo, abbina una previsione di maggior gettito e viene presentata come una misura anti-elusione. Allora, a parte il fatto che saremo tutti esposti agli aggravi, visto che doverlo fare ogni trimestre costa e il commercialista lo paghiamo noi. Benissimo, ma detto questo, quello che le chiedo io è, se davvero fosse così, mettiamo che non serve a far cassa, ma serve invece a diminuire l'evasione. Ma allora perché il governo, non, invece di prevedere le comunicazioni trimestrali, non introduce, come in tutti gli altri ordinamenti, nella stragrande maggioranza, guardate, all'80% dei paesi avanzati, si fanno le dichiarazioni IVA in alcune trimestrali e in tante altre addirittura mensili. Qual è la differenza per chi non è un lavoratore autonomo? Se io, Giannino, faccio la dichiarazione trimestrale, ho diritto anche alla compensazione del credito trimestrale. Se la faccio mensile, lo Stato mi dà diritto al calcolo e poi alla liquidazione del credito fiscale di mese in mese. Allora sì che ci starei, ma qua è unilaterale. Io adesso sarò tenuto a fare di trimestre in trimestre, e mi costerà, come ovvio, a comunicare le fatture, tanto che io sia attivo o passivo, quelle emesse o quelle a me invece pagate. E a quel punto però io non andrò in compensazione se non annualmente, e poi compensate negli anni. Che senso ha una cosa di questo genere? Me lo spiega, magari sfugge a me che sono un lavoratore autonomo. Lo Stato, posso dire che lo Stato è un leviatano fiscale, ovvero sia è molto affamato di risorse, quindi quelle che c'ha se le tiene. E quindi, diciamo, la compensazione, il mandare a credito, il permettere di ricevere direttamente un bonifico dal IBAN dello Stato al proprio IBAN è una cosa che dal punto di vista della liquidità dello Stato viene vista come qualcosa che diminuisce l'ammontare di risorse disponibili. Io lo vedo dal punto di vista filosofico e pratico insieme, e penso che possiamo essere d'accordo su questo tema, cioè che c'è una questione per cui le risorse, c'è asimmetria, c'è un trattamento iniquo, perché pensiamo per esempio ai debiti dello Stato rispetto alle imprese. A che punto siamo col pagamento dei debiti? È la stessa cosa in un'altra veste, perché lì si tratta del pagamento di debiti commerciali, certo. Però è comunque una situazione in cui il cittadino è sempre in una posizione inferiore. Io da liberale lo trovo assolutamente inaccettabile, ma ripeto, dal punto di vista della finanza pubblica, se non si diminuiscono le esigenze dello Stato dal punto di vista della spesa, in particolare la spesa corrente, saremo sempre a questo punto qua. Perché queste sono le esigenze di soldi che devono entrare o rimanere presso lo Stato. Le posso fare una domanda, professore? Siccome lei tiene corsi degli studenti, questa è una domanda deontologica, cioè, visto che noi viviamo in un paese nel quale la giurisprudenza sia di Corte Costituzionale che di Corte di Cassazione, ma quella che conta naturalmente a maggior rilievo è soprattutto preeminentemente quella della Corte Costituzionale, in realtà consolida nel tempo, nei decenni, esattamente quello che lei ha detto, cioè le esigenze dello Stato vengono prima, in parole povere. Allora, a quel punto, quando si insegnano agli studenti questi fondamenti di economia pubblica, che cosa bisogna fare? Qual è il limite entro cui lei si tiene tra le sue convinzioni, quelle liberali che ci ha appena detto, e il fatto di dire, ma comunque il nostro ordinamento è caratterizzato da un principio, cioè che lo Stato, se vuole, ha sempre ragione? Non è una scelta. In primis c'è la libertà accademica, quindi molte cose si possono dire. La cosa da farsi in una materia come questa, che non è una scienza naturale ma è una scienza virgolette sociale, è di prospettare i diversi punti di vista, cioè dire i diversi punti di vista. Poi io, scherzando o meno, dico che c'è il mio punto di vista liberista con due B, come amano dire i detrattori romani o non romani, dico che c'è una questione di asimmetria, ovvero sia c'è lo Stato che si mette in una posizione di preminenza e dall'altra parte anche a livello di giurisprudenza, cioè di decisione dei giudici, anche a livelli alti, quindi la Cassazione, questo atteggiamento di asimmetria viene giustificato. Il problema è che un conto dire che ci serve la coercizione perché i cittadini contribuiscono ai beni pubblici, perché sennò farebbero finta che i beni pubblici non gli interessano, che è una questione teorica di un certo tipo, ma dall'altra parte il non si capisce per quale non c'è nessuna giustificazione, per esempio, per il fatto che lo Stato sia sempre indietro con i pagamenti della pubblica amministrazione. Ecco, quindi, un esempio... ci sono schemi teorici che giustificano, altre cose non vengono giustificate da questi schemi teorici. Vengono semplicemente praticate, e siccome siamo comunque tornati a 90 miliardi come ordine di grandezza di debito commerciale, stiamo parlando di punti di PIL. Allora, io ringrazio il professor Puglisi non solo per il ragionamento che ha fatto oggi sul Corriere della Sera, che ci ha qui ripetuto, ma anche perché abbiamo risposto agli ascoltatori che dicono ma attenzione, un conto è insegnare bisogna stare alle cose come stanno, le vostre opinioni conteranno ma vengono in seconda battuta, e ho capito, ma non si può per questo accettare l'idea che lo Stato abbia sempre ragione. Siamo qui per discuterne, non per rivoluzionare con la violenza, ma per discuterne. Comunque il governo che ci dice che cresce la spesa nei prossimi anni e crescono le entrate. Grazie professor Puglisi, continuate su Radio 24, appuntamento con Alessandro Mina domani mattina alle 8:20 con Attenti alle 2.